Siamo soli nel mezzo del mondo, qualcosa divide la gente da noi, ma quello che conta non ha senso. Quello che conta che tu sei con me, adesso che il fumo cancella l'estate, il viso ritorna scendendo su noi, la lunga vacanza si chiude per sempre, pure qualcosa di noi resterà. Non parlare più, guarda la strada in fai, io sono qui con te, tu sei.